Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. In questa mattina sufficientemente angosciata per le notizie che ci arrivano dal centro nord Italia riguardo al terremoto, su cui avrete presto altri aggiornamenti da parte dei colleghi del giornale radio, noi parliamo comunque di terra. Parliamo di terra secondo un concetto antico, un concetto rivisto molte volte alla luce di modelli culturali transeunti, passeggeri, che facciamo nostri ma non sempre ci appartengono visceralmente come esperienza e soprattutto come approfondimento. Quanti di voi hanno nella propria storia familiare un contatto reale e concreto con la terra? Siete di generazione cittadina, inurbati da almeno 3 generazioni, avete avuto anche voi una infanzia, una fanciullezza, un momento della vostra vita in cui la terra faccia parte delle esperienze quotidiane, cioè vi alzate la mattina, vedevate che qualcuno della vostra famiglia, delle persone vicine alla vostra famiglia, andava a coltivare la terra, seguiva quelli che erano i ritmi e le necessità di coltivare la terra. Questo oggi viene molte volte maldestramente ricostruito in usi metropolitani che a volte fanno sorridere. Chiacchieravo questa mattina e guardavo di un grande piano che è stato fatto per recuperare, rilanciare, ridare vitalità alla città di Roma, il famoso piano Rifkin, che prevede lo sventramento di grandi palazzi nel centro storico per farne cosa? Per farci degli orticelli, portarci i bambini a coltivarli, metterci grandi paleoliche. Ecco, molte volte noi ci crogioliamo in queste letture romantiche che appartengono ad antiche utopie per cui sia possibile ritornare a un'era felice in cui le persone mangiavano cose naturali, ma proprio così, mangiano veramente cose naturali, vivono veramente come quelle di Liliaca e Famiglia che fanno il tavernello, tutti felici, cantano contenti, raccolgono l'uva e viene fuori quel bellissimo vino dentro il cartone, come veniva fatto una volta. 800 24 00 24, cosa ne pensate della terra, del cibo, del coltivare la terra come era fatta una volta? Nonno Antonio. Mio nonno Antonio produceva in regime biologico, non per convinzione etica, ma per costrizione. Non aveva fertilizzanti, diserbanti, pesticidi. Mangiava solo i prodotti del suo orto, quando li aveva. E soprattutto era un uomo a chilometro zero. Non si muoveva mai di casa. Mio nonno ha combattuto la fame per tutta la vita, perché i suoi prodotti erano sì tipici, coltivati con le sue mani nel suo piccolo orto, naturali e così via, ma non eccellenti, né per quantità né per qualità. C'erano gli insetti, che sono bestie ingrate e si mangiavano tutto, nonostante mio nonno coltivasse biologico, e poi le erbacce, che soffocavano le piante. Aggiungi a queste avversità il cosiddetto chilometro zero, ovvero il fatto che mio nonno non si muoveva, che a pochi incontri corrispondevano pochi scambi culturali, sicché il suo dialetto era stretto e arcaico. E capisci che la sua conoscenza rimaneva sempre uguale. Antonio Pascale, buongiorno. Buongiorno a voi. Qui stiamo parlando di tuo nonno. Tuo nonno, di cui parli nel tuo libro Pane e Pace, il cibo, il progresso, il sapere nostalgico, edizioni Chiare Lettere, dove in questo libello mostri innanzitutto, rivela la tua passione per l'agronomia, per la terra, per la coltivazione, a parte proprio da questa idea del tuo nonno. Secondo te Jeremy Rifkin, quando pensò a questo piano fantastico dello sventramento del centro storico di Roma, roba di pochissimo tempo fa, fu presentato in grande pompa, con gli orticelli dentro che venivano coltivati, aveva idea di una lettura nostalgica, arcaica, di tante persone, tanti romani presenti come tuo nonno, che prendono la passione per la terra, escono la mattina con la zappetta e la vanga, vanno a coltivare il loro orto? Penso di sì, nel senso che io l'ho scoperto da poco questo piano e sono rimasto anche un po' di sasso, perché appunto il problema è un po' questo: noi abbiamo delle opinioni, le opinioni vengono dette dai politici e poi tradotte in leggi, no? Ecco, quindi se abbiamo opinioni superficiali e malsane e poi non ci possiamo lamentare se i politici fanno leggi malsane e superficiali. Ma visto che è il tuo campo, ecco, dov'è il punto di caduta comico di quando si pensa di ristrutturare, ritornare a dei tempi arcaici, Questo arcanismo è un pochino come Centurioni davanti al Colosseo. È mal visto, è mal interpretato, non c'è più memoria storica. Tuo nonno faccia la fame, era a chilometro zero ma faccia la fame. Sì, mio nonno ha fatto la fame tutta la vita. Pare che anche sul letto di morte parlasse del cibo. Il cibo che poi non ha mai avuto, no? Ecco, che è riuscito a ottenere in minima parte negli anni 40-50, cioè con l'avvio della rivoluzione verde, cioè quando sono arrivati i primi agrofarmaci, quando è venuta la chimica, quando la chimica è stata disponibile per tutti. I concimi chimici, diserbanti, le cose che facevano sì che il raccolto potesse essere qualcosa di accettabile rispetto al magro raccolto dell'agricoltura cosiddetta biologica. Purtroppo sono dati, cioè noi abbiamo coltivato biologico per quasi 10.000 anni, Cioè, le prime rese agricole dei cereali, per esempio, testimoniano che un contadino romano arrivava a produrre una tonnellata ettaro. Ecco, tuo nonno negli anni 50 aveva la stessa resa. Esatto, una tonnellata ettaro. Poi, successivamente, con la Rivoluzione Verde, questa resa si è alzata. Si è alzata e finalmente l'Italia è uscita dalla fame. Perché prima c'era la fame, insomma i dati Istat su questo sono molto chiari, le calorie disponibili non erano così abbondanti. Ma infatti lo spettro era la fame, sì. Ma basta guardare le foto, tu hai messo delle foto nel tuo libro, sono anche belle foto, ma guarda le foto dei nostri nonni, dei nostri papà, erano degli scheletri, sembravano tisici, erano magrissimi, erano persone che siamo usciti dalla guerra che eravamo un popolo scheletrito. Vabbè che ci sono state le fame, le deportazioni, la miseria, ma anche prima, anche negli anni favolosi del ventennio in cui sembrava che tutto arridesse, la gente era pelle e ossa, come mai? Perché le calorie non erano disponibili, perché appunto la resa delle produzioni era bassa, perché non c'erano gli agrofarmaci, non c'erano i diserbanti, non c'erano i concimi chimici. Senza questi elementi noi possiamo invocare la parola biologico quanto ci pare, possiamo fare le danze propiziatorie, ma in realtà la resa non cresce, perché la pianta non pensa a noi, la pianta pensa a se stessa, siamo noi che la forziamo. 800240024, avete capito il tono da chiacchierata che stiamo facendo questa mattina con Antonio Pascale. Noi che ci preoccupiamo in questo momento delle nostre maniglie dell'amore, noi che ci guardiamo con preoccupazione, diciamo dobbiamo mangiare meno carboidrati, mangiamo soltanto bresaola per la dieta Duncan, noi che siamo ossessionati dal nostro grasso superfluo e allo stesso tempo invochiamo dei periodi felici in cui sembra che tutto fosse improvvisamente dedicato alla natura, ma mi stanno tartassando in questi giorni con immagini di porcini, ci vergognati infame, guarda questi poveri maiali come soffrono, io sottoscrivo slurp, slurp, slurp, mi porto la carbonella, ma faccio un gesto infame, faccio un gesto antitetico alla visione ecologica del mondo. Alessio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. No, chiamo perché sono un trentenne che vive in bilico tra l'urbanizzazione e la natura. Cioè, c'è l'orticello in terrazzo, che vuol dire? No, allora, ho vissuto per un paio d'anni a Milano, città molto interessante, sono stato anche un po' a Roma, ora vivo in Toscana a 50 km dal primo centro abitato che si possa definire abitato. Quindi ha fatto il grande passo? No, più che altro sono tornato a casa. Guardando un po' la società moderna così, sembra che ci siamo un po' dimenticati di quello che eravamo 50 anni fa, cioè neanche fossero stati 4 millenni. E ci sono certe cose che sono state dimenticate. Mi ha fatto molto impressione quando una mia cuginetta è andata in una di questi zoo dove fanno vedere le vecchie usanze e le fecero vedere come si caricava la legna sui muri, ma io quando avevo 14 anni andavo ad aiutare mio nonno a caricare la legna sul mulo. Sì, ho capito, ma la sintesi qual è adesso di tutto questo? Era meglio una volta quando i nonni caricavano la legna sui muli, o meglio oggi quando i nonni prendono il Viagra e sembrano ragazzini di 25 anni anche se hanno 70? Antonio Pascale. Beh, insomma, in gergo si chiama sapere nostalgico, cioè la sensazione che tutto ciò che è accaduto nel passato abbia un grandissimo valore e tutto ciò che è presente è corrotto. I psicologi cognitivi la chiamano retrospezione erosia, cioè la predisposizione a idealizzare il passato. Per questo, scusami Antonio, oggi le applicazioni che più vanno su Facebook, nei social network, sono Instagram. Questi programmini, tu fai una foto e puoi decidere anni 50, anni 40, anni 30, e veramente ti antichizzi e quindi acquisti valore. No, certo, perché poi da una parte il sentimento della nostalgia è un sentimento anche sano, ti metti in rapporto con un passato, no? ti dà accesso al passato. Ma il sapere nostalgico è una idealizzazione del passato, è diverso, cioè si crea un modello così perfetto, così alto, così puro, che ogni spostamento da questo modello è una caduta. Ecco, noi in Italia non siamo poi schiavi di questa idealizzazione del passato. Noi ci siamo lamentati giorni fa perché Woody Allen, che è stato segretamente a girare un film per Roma, sembrava che facesse il suo capolavoro, fa una chiavica di film che ci vede ancora come una sorta di trash di Fellini, La dolce vita della Roma passata. Ma in realtà, se tu guardi tutto il nostro divismo, la lettura degli italiani, le pubblicità dei nostri prodotti, si sono tutti, è come quelle sagre di paese dove viene resumato il medioevo rinascimento, si vestono ridicoli persone contemporanee vestite da persone di altri tempi. Ecco, noi siamo un grande tempo del passato inesistente, vago, ma sembra una rivocazione da Proloco, e poi ci lamentiamo. È vero, e questo poi è una specie di malattia, è una malattia, nel senso che la arretratezza culturale nasce proprio da un modello che abbiamo preso come riferimento, che è appunto questo famoso passato. Naturalmente godiamo dei benefici della modernità ogni giorno, ma amiamo pensare che stiamo meglio in un'altra è per epoca. Questo adesso le voghe culturali inneggiano lo steampunk, che è una sorta di tecnologia però applicata all'Ottocento, una specie di Belle Époque in cui abbiamo tutto quello che ci serve, però siamo travestiti come dei signori d'antan, perché questo ci piace. Antonella, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei ha un'esperienza di agricoltura biologica. Sì, io sono un agricoltore e faccio l'agricoltore per passione. Ho ereditato l'aziendina e anche diciamo il know-how di come si vive, di come si fa, da mia nonna, e ho cercato di farlo diventare il primo lavoro disperatamente, ma non c'è stato niente da fare, perché in effetti è proprio vero questo, che la gente vuole vive con questo sogno meraviglioso di quello che era il passato, di come si poteva vivere meglio, di come si viveva sereni, e poi però purtroppo la realtà odierna per noi altri che abbiamo deciso di vivere in queste zone così marginali, così lontane, di lavorare in campagna, è veramente difficile, veramente difficile. Al punto che dopo aver tanto lottato ho purtroppo dovuto cedere e faccio questo come la mia passione, come secondo lavoro, e per vivere e mantenere i miei figli faccio l'impiegata part time. Quindi è diventato il suo gioco, il suo divertimento, il suo bricolage domestico è coltivare la terra biologicamente. Non è tanto domestico, perché specialmente in stagione si lavora fino alle 10 di sera con tanto sacrificio. Ma quale ente ufficio permette che lei possa fare questo e allo stesso tempo fare l'impiegata, solo per capire? No, semplicemente c'è la partita IVA agricola sulla quale io pago le mie tasse. Sì, no, ma lei va in ufficio, come fa a fare il suo orario d'ufficio se deve zappare le patate o deve potare le viti? Io lavoro dalla mattina alle 8 all'1 del pomeriggio, vado a casa, sistemo la mia famiglia, dopodiché mi butto in campagna, e quando magari viene un po' buio alcune volte si accendono le luci del trattore, perché insomma alla fine è così. Ah beh, certo, si può lavorare anche di notte, benissimo. Sì, non è di notte, adesso non esageriamo, che poi magari qualcuno mi critica, dice chissà questa cosa racconta, no. No, certe cose si possono fare. Alcune volte che si accendono le luci o una piccola lampada frontale per sfruttare, diciamo, la giornata finché dura. Arare la terra, se uno ce la fa, può anche arare di notte, non c'è problema. Sì, alcune non si semina magari, non si pota, ma si può arare benissimo. Si può vendemmiare, sì. Si può vendemmiare con la luce, se uno vuole, con la luce artificiale. Sì, diciamo che adesso è diventata una moda, no? In Sicilia fanno vedere in tempo di vendemmia le foto elettriche, che meraviglia, di notte così profumi. Alcune volte sì, può essere bucolico, però insomma. E poi tutti pestano il vino con i piedi cantando e ballando e si nascono nuovi amori. Sono cose che ci sono solamente nei film. Certo, figuriamoci. Non nella realtà, la realtà è molto più faticosa. Ho vissuto la terra da ragazzo, mi ricordo solo tante bestemmie che sentivo per quei campi, non è che vedevo gente ballare e cantare. È proprio vero, difatti la cosa che la gente non sa, specialmente quelli che noi, vabbè, li chiamiamo in tono un po', virgolette, ridicolo, i milanesi che vengono da noi, io parlo dell'Oltrepò Pavese, è che hanno questa visione, no? E noi un pochettino li prendiamo anche in giro, anche se per carità da loro abbiamo avuto in tempi lontani, purtroppo, oramai tanto benessere, perché venivano qua e si portavano i soldi, si portavano via il nostro vino. Beh, adesso voi fate, però fate... hanno questa visione, certo. Visione. Antonio Pascale, è possibile fare la Disneyland, il parco a tema dei contadini di una volta? Perché un po' è anche questo. Io penso che poi i contadini che coltivano i regimi di biologico, poi si dice organico, no? Biologico non significa nulla, hanno una qualità, e cioè sono stati i primi a preoccuparsi dei danni della rivoluzione verde, cioè i primi a chiedere che l'agricoltura fosse più sostenibile, avesse meno impatto ambientale. Tuttavia io continuo a credere, questo insomma, ma lo devono dimostrare loro, che non è vero, che il vero biologico è tecnologico, cioè soltanto grazie all'innovazione tecnologica si può produrre con meno input energetico, quindi con meno costi. Del resto noi lo sappiamo, lo vediamo ogni giorno. Nel 1800 ci volevano 6 ore di lavoro per produrre un'ora di luce, adesso ci vogliono mezzo secondo di lavoro per produrre un'ora di luce, quindi vuol dire che stiamo risparmiando. Le innovazioni danno risparmio sui costi, e la stessa cosa accade in agricoltura. Laura, buongiorno. Buongiorno, grazie per la trasmissione. Allora, io ho 64 anni, gestisco 2 negozi e da 17 anni sono ritornata alla terra e vivo come si viveva circa 50 anni fa, con il riscaldamento a legna, tenendo a conto le potature delle viti, le potature degli ulivi, facendo la brace con le stesse potature, e sarei contenta se qualche volta venisse meno la corrente, per vedere come ci si sente, se si riesce a fare un ragionamento di come eravamo e di come forse andremo a finire. Pascale, io direi una cosa, ecco, è la società del benessere che permette alla signora di tornare in campagna a bruciare la legna, perché se 50 milioni di italiani tornassero nei boschi, a parte il fatto che occuperebbero tutta la superficie boschiva italiana, ma quanta legna dovremmo bruciare? Hai voglia potarviti? Io penso che per riscaldare una casa a 15-16 gradi come sono oggi. Non vorrei dire questa parola, ma penso che ci sia un po' di egoismo in questo, cioè pensare che il mio piccolo orto sia autosufficiente, ma gli altri, cioè se brucio la mia piccola radura di legna va bene, ma se tutti bruciano legna diventa un problema serio. Ecco perché abbiamo inventato altri strumenti per produrre energie. Melog, la realtà condivisa. OGM, oddio. Questo termine, organismi geneticamente modificati, è tecnicamente preciso ma semanticamente fuorviante. Tutto è geneticamente modificato. Che vogliamo fare? Prendercela con i cacciatori raccoglitori o con i primi agricoltori che hanno scelto alcuni caratteri delle piante e dunque, inconsciamente, scelto il gene o più geni responsabili di quel carattere? Nessuna novità, allora? In un certo senso nessuna. Le piante continuano a essere modificate, con una piccola differenza. La tecnica odierna consente una maggiore precisione, come per tutte le innovazioni. E allora, perché a più precisione e sicurezza corrisponde più paura? Precisione, sicurezza, paura. Questo è un brano tratto dal libro Pane e Pace di Antonio Pascale, Il cibo, il progresso, il sapere nostalgico, editore Chiare Lettere, in cui Pascale fa un suo excursus retrospettivo nelle generazioni che l'hanno preceduta, sempre fatte di persone attente alla terra e da cui, che dalla terra cercavano la fonte primaria di sostentamento. Pascale cerca di demolire alcuni luoghi comuni, alcune convinzioni che ormai fanno parte della nostra civilizzazione, che una volta fosse meglio, che la tecnologia non sia mai esistita, che a un certo punto in poi siamo diventati cattivi in quanto tecnologici. Seguendo quello che diceva la collega al giornale radio poco fa, ho acceso Twitter in questo momento e mi rendo conto che della tecnologia non se ne può fare a meno. Tramite Twitter stanno comunicando: usate il meno possibile i telefoni cellulari perché le linee sono sovraccariche, usate le reti wifi che probabilmente ancora funzionano. Quindi vedete che è un po' difficile vivere in maniera arcaica. Immagino la signora che viva soltanto di potature di vite, tutta felice e contenta. Cosa farebbe in questo momento se sotto di lei la terra tremasse, non avesse nessuna maniera per chiedere soccorso, capire cosa succede accanto a lei? Antonio Pascale. Sì, prima c'era questo brano appunto tratto dal libro in cui si parlava di questi famosi e malefici OGM. Diciamo che generalmente il cittadino ti ascolta fino a un certo punto quando si parla di tecnologia, ma ci sono alcune parole tabù, difficili da pronunciare. Una di queste purtroppo è appunto OGM, no? Perché passano così felicemente nella ritrosia che ha di solito il qualunquismo culturale di fare propri dei termini importanti? OGM uguale cattivo, questo va bene per tutti, non esiste, così è normale, un OGM, ma scherzi, leggi bene che c'è scritto OGM, perché magari dopo ti viene un figlio deforme o cose del genere. Siamo un po' a questo livello purtroppo, ma sai, quando OGM è tutto quello che mangiamo, lo vogliamo spiegare, insomma, la parola è organismo geneticamente modificato. Purtroppo poi questi acronimi danno un po' di paura, no? In realtà, se avessero scritto organismi geneticamente migliorati, beh, sarebbe stato un po' meglio, sarebbe accettato un po' meglio questa parola. Ma si pensa che l'ingegneria genetica sia nata 20 anni fa, ma in realtà è nata 10.000 anni fa, quando probabilmente la prima donna piantò il primo seme di farro e scelse un carattere, cioè scelse una pianta con l'arachide rigido che non perdeva la cariosside. Dietro quel carattere c'è un gene, quindi la signora che piantò, la cacciatrice raccoglitrice che piantò questo seme, orientò la pianta verso un percorso evolutivo. E il primo signore fece un innesto? Anche. Non modificò qualcosa? Sì, sì, insomma. E quindi, mangiatevi un frutto non innestato, mangiate l'uva selvatica, poi sentite che differenza. Abbiamo fatto delle modifiche, in maniera inconscia, innestando, ibridando, cioè mettendo insieme due genomi di piante differenti. Adesso negli anni Ottanta è venuta fuori questa tecnica che permette di togliere, di prendere soltanto il gene che ci interessa, cioè non l'intero genoma da ibridare con un altro genoma, ma il gene che ci interessa, e questo appunto dà una maggiore precisione, che conosciamo meglio qual è oggi che cosa produce il gene, cosa l'attiva, cosa lo spegne, insomma. Beatrice, buongiorno, sentiamo qualche ascoltatore adesso. Beatrice. Buongiorno dottor Nicoletti, grazie mille per l'argomento della puntata di oggi. Guardi, io sono un'addetta ai lavori, nel senso che ho scelto di fare la contadina 15 anni fa. Ho acquistato un'azienda agricola, ho prodotto frutta, quindi ho piantato frutta. Dove? Allora dove produce? Sono a Colle Corvino, sono a 20 km da Pescara. Allora volevo dire che, primo, io non sono capace di produrre una pesca biologica, primo perché mi costerebbe troppo, in secondo luogo a chi la vendo? Il mercato è abituato ad avere pesche che devono essere colte e acerbe, devono essere perfette e devono essere tutte grandi, il che ha un costo immane per un'azienda agricola. Le aziende, tra l'altro, è un settore che sta assolutamente in crisi. Questione numero due: chi acquista questi prodotti? Il consumatore è un consumatore che entra in un negozio e vuole frutta assolutamente perfetta, perché la mela col verme o la mela bacata, le posso assicurare che non la vuole nessuno. Ma la pesca biologica sono quelle peschine che bisogna tagliarne via la metà per mangiarne un po' di buono, è così. Perfetto, perfetto, e non le vuole nessuno questo. Figuriamoci se c'è una lumaca. Questione numero due: in campagna, tra l'altro, esatto, è il consumatore, no? Il consumatore è abituato che, ad esempio, in questo periodo acquista mele che paga l'ira di Dio, ma che si sono fatte ben 5-6 mesi di frigorifero. Certo. Perché le ultime mele noi le raccogliamo a novembre, e la mela tardiva, la Pink Lady. Dopodiché, quando il consumatore acquista una mela, paga il frigorifero. E non si capisce perché, quindi è comunque impreparato. Il cittadino in campagna non può venire, perché ora si sporca la scarpa, ora ha un problema con gli insetti oppure con le lucertole. Mi ha capito? Tenga conto che un contadino preparato può usare i fitofarmaci in maniera rispettosa, ovviamente, di quelle che sono le regole, e si ottengono dei risultati, e forse riesce a far quadrare i conti. Ricordiamoci che per noi il gasolio agricolo è diventato, sta ad un euro e passa al litro, che è, e sono aumentati i concimi e sono aumentati i fitofarmaci. Quindi Beatrice, non prendiamoci per il culo, diciamo la verità, questa è la sintesi di quello che dice lei. Dice, io ci lavoro con la terra, non mi prendete in giro quando andate nel negozio o vi portano a casa quei sacchettini di carta come una volta, così belli che ancora c'è la cacchetta della mucca per far capire che vengono proprio dalla terra vera, con quelle belle melettine col verme. Sì, se volete mangiatele, ma non è quello. Sì, sì, poi ecco, guardi, mi permetta, aggiungo a proposito di OGM, no? Veloce. Per esempio, allora io il mais non che non sia non modificato, io non lo trovo più. Antonio Pascale, sentiamo un po', commentiamo quello che dice questa simpatica ascoltatrice. Ha ragione, è competente, è competente, si sente, ma insomma, purtroppo gli insetti, ripeto, non sono culturalmente modificati, cioè non è che sanno leggere, dunque vedono la scritta a campo biologico e non attaccano quella pianta e magari si buttano sul cattivo che invece usa l'agrofarmaco. Gli insetti attaccano le piante, dobbiamo pur difenderci. Ci sono varie tecniche per farlo, alcune riescono, altre riescono un po' meno. La strategia futura però è mirata a questo: dobbiamo far sì che la pianta stessa si difenda contro gli insetti e contro le avversità. Per far questo dobbiamo corazzarla, cioè dobbiamo lavorare sul codice genetico della pianta e corazzarla contro i patogeni. Soltanto così si potrà usare meno insetticida. Altrimenti appunto dobbiamo limitarci a fidarci di alcune tecniche che però danno risultati scarsi, purtroppo. Melog, la realtà condivisa. Superare il sapere nostalgico. Non bisogna rimpiangere troppo le vecchie cose, semmai integrarle con apporti nuovi. La Citroën a due cavalli, la macchina che ho sempre sognato di avere e mai ho posseduto, inquina più di un SUV, tanto per citare una macchina che detesto e mai comprerò. In questi anni l'industria automobilistica ha fatto miracoli per ridurre l'inquinamento. Nuove marmitte, design aerodinamico, materiali più resistenti ma più leggeri. È l'innovazione, bellezza. 800240024, ecco, questa è, diciamo, è la sintesi di quello che ci dice Antonio Pascale nel suo Pane e Pace. È vero, noi non riflettiamo molte volte su certe icone care alla nostra nostalgia, la Due Cavalli, per me può essere il Maggiolino. Maggiolino era peggio di un trattore, consumava l'ira di Dio, era pericolosissimo, bisognava stare attenti, non sterzava, non frenava, era ingombrantissimo, era scomodo, era totalmente privo di ogni forma di sicurezza, però era bello, era nostalgico. E rispetto al sentire comune, ecco, ci sono delle strade per uccidere la nostalgia, fare un'operazione quasi futurista, se non fosse così logorato questo termine e mal usato e abusato ultimamente. I psicologi cognitivi sono molto divertenti su questo tema, perché parlano di due sistemi attraverso i quali noi ragioniamo: il sistema 1 e il sistema 2. Il sistema 1 ha origine nel paleolitico, è un sistema che permette l'associazione, quindi è molto veloce, consuma poco glucosio, quindi è sostenibile, e quel sistema ci permette di riconoscere la paura nel volto di un altro in 30 millesimi di secondo. Il sistema 2 invece è quello analitico, molto lento, pigro e a alto consumo di glucosio. Ecco, noi ragioniamo o attraverso il sistema 1 o attraverso il sistema 2. Spesso però il sistema 1 produce quelli che si chiamano bias cognitivi, cioè degli errori di valutazione, proprio perché associa facilmente i concetti. Ecco. E io credo che un modo per riuscire a affrontare i problemi oggi è proprio quello di far funzionare di più il sistema 2, cioè di dar più conto all'analisi, ai numeri, e un po' meno conto agli aggettivi, perché sugli aggettivi siamo tutti d'accordo. Se diciamo che il mondo ha dei problemi e questi problemi vanno risolti, io sono d'accordo con tutti. La Terra sta morendo, sì, insomma, stiamo distruggendo il nostro pianeta. È vero, cioè, ci sono dei problemi seri. Non ci piove, se no sembra che siamo, stiamo tirando la volata, esatto, chissà quale multinazionale, non è così? No, purtroppo non tiriamo nessuna volata. Il casino c'è davvero, non ci sono problemi. Ci sono dei problemi seri che però solo attraverso la competenza potranno essere risolti. In fin di conti ci siamo già trovati in momenti duri nella nostra storia e ce l'abbiamo fatta grazie all'innovazione e alla cultura che ha fatto sì che l'innovazione potesse essere applicata alla vita di ogni giorno. Se non riesco, sai qual è, Antonio? Che ci creiamo una mentalità fortemente, radicalmente, ingiustamente luddista e ci sembra che la salvezza sia come la signora delle spuntature di vita, che mi ha veramente colpito, che la vita sia semplicemente un ritorno all'arcaicismo, che non è possibile se non con un atto di immenso egoismo. Se una strage post-atomica ci lascia soli al mondo, possiamo rimetterci a scaldarci con i legnettini. Beh, se no, no. Pensiamo che quando appunto abbiamo, la nostra specie ci è staccata dai grandi primati, circa 2,5 milioni di anni fa, e per molti milioni, e per milioni di anni noi siamo stati 500, 600 mila, 1 milione forse su questo pianeta. E voglia te a correre, cioè, saltare e bruciare legna. E questa cosa la rimpiangiamo ancora, perché pare che le condizioni di vita di cacciatori e coltivatori non fossero così male, lavoravano soltanto 3 ore al giorno, mangiavano 186 specie differenti tra micro e macro flora e fauna e facevano l'amore tutto il tempo alla fine. Quindi, insomma, era una condizione. Dovevano popolare il mondo. Certo. È la nascita dell'agricoltura che ha cambiato tutto. Pensate che i primi agricoltori, i primi resti fossili, hanno dato così agli scienziati dati diversi, cioè le persone erano con l'arteriosclerosi, con la scoliosi, con le carie e con l'osteoporosi, certo, tutto il tempo. Ma per questo Caino ammazzò Abele. Ma certo. Perché lui doveva fare l'agricoltore, Abele faceva il pastore, era felice, sacrificava i suoi agnellini a Dio e faceva una bella vita. E questo Caino, vuol dire che Caino l'ha ammazzato. Che l'agricoltura è la pratica più naturale che esista. Però intanto da 10.000 anni non facciamo altro. Roberto. Roberto è morto. Gianluca. Pronto? Gianluca, sì, ciao, buongiorno. E in questo momento sto finendo di innaffiare i tortarelli, quindi sono direttamente dall'orto sto parlando. I tortarelli cosa sono? Sono dei cetrioli più chiari rispetto ai cetrioli normali, sono più digeribili e si utilizzano nell'insalata insieme ai pomodori. Ma sono biologicamente modificati? Sì, certamente, le devo dire, allora... Nemmeno il cetriolo è più lo stesso. No, ma sono delle stronzate, lo dico subito. Allora, il problema è questo, e quando si incomincia a impiantare un orto, di solito si va nei vivai a prendere le piantine, che di per sé stesse sono già delle piantine selezionate, quindi l'organismo non è una piantina proprio naturale in tutti i sensi, quindi già viene fatta una selezione in vivaio, quindi vengono selezionate le piante più vivaci, quelle che poi potranno crescere con maggiore facilità. Quindi questo fatto di trovare dei semi, partire dal seme, è molto difficile. Beh, giusto, se lo trova in una grande piramide, una giara con dei semi egiziani conservati nel tempo e coltiva quelli, forse. Non lo so, ma nemmeno quelli, perché conoscono benissimo anche loro l'agricoltura, quindi non sarà stata una semente. Ho provato con dei semini, ma sinceramente il risultato, tenendoli nelle famose palette, cioè alcuni magari li ho nutriti, li ho fatto crescere la piantina, ma il prodotto, l'ortaggio era sempre un ortaggio molto molto povero, cioè anche visivamente era più piccolo degli altri, diciamoci la verità. Quindi è un po' è difficile trovare, sinceramente. Quindi mi sembra, però, in conclusione, intanto saluto e ringrazio Luca Antonio Pascale, sì, che dall'indicatore che abbiamo di questo pubblico, che è un pubblico duttile, oggi si parla di terra e chiamano tutta gente coltivata terra, contadini. In effetti la realtà è questa, quelle che sono mode culturali, quelle che sono linee di tendenza ricalcate dai giornali, dagli opinionisti, da chi fa opinione, sono molto differenti dal sentire comune. Vedi che poi chi lavora la terra sa perfettamente di cosa si tratta, lo dice, non ha dubbi sul fatto che ormai siamo abituati diversamente e mai più torneremo al tempo in cui si zappava la terra e si condiva con il sudore e con le bestemmie. Ma è così, insomma, chi ha una competenza, anche una visione un po' diversa. A me dispiace, perché in fin di conti se si tratta soltanto di marketing va benissimo, quando diventa invece una moda capace di influenzare poi la conoscenza del cittadino, questo poi diventa spiacevole, no? Sì, perché uno perde felicità, va a fare la spesa e convinto di comprare roba avvelenata, che dietro ci sono dei turpi figuri che sulla sua salute stanno facendo lucrando. Ovviamente c'è anche quello, ma non illudiamoci, con il semino di una volta, la melina bacata, noi risolviamo il nostro problema. Grazie Antonio Pascale, grazie a voi. Pane e Pace, editore Chiare Lettere. A domani.